La rete fognaria, che aveva ispirato qualche film in passato, era un labirinto che si sviluppava tra le due città, la città sepolta, Napoli sotterranea, e l'attuale Na 2013. Nel paesaggio melmoso e maleodorante di quel purgatorio della rete fognaria viveva una popolazione che da sempre aveva minacciato sia la città antica che la città nuova. Questi esseri, metà uomini e metà topi, erano i Tarspok. Letto al contrario, il significato non cambia. Queste anime nere e maleodoranti, come il luogo dove essi vivevano, nei giorni in cui le nuvole diventavano più scure e gli edifici costruiti nella New York napoletana, il cosiddetto centro direzionale, tentavano la salita verso le case abitate della città che viveva sopra di loro. Ma loro erano invisibili, in certi casi, alla popolazione della città nuova. Erano attraverso le mura, attraverso gli apparecchi elettrici come elettrodomestici, attraverso le canaline della rete elettrica e quella telefonica. Le loro intenzioni non erano di attaccare la popolazione indiscriminatamente, ma ascoltarla e spiarla. Attraverso i campi magnetici creati intorno ai cavi elettrici e telefonici, loro ascoltavano i discorsi e cercavano di conoscere le abitudini della popolazione viva, quanto lo può essere uno zombie. La città nuova, rispetto a quella sotterranea, si differiva per una sola cosa: aveva una popolazione. Per il resto erano due città morte. Una popolazione assoggettata al consumismo, alla fede religiosa e ai loro governanti. Una popolazione che, per quanto poteva sembrare viva, era solo un gregge di corpi svuotati che camminavano sulla terra sbranandosi l'un con l'altro. Vedere la popolazione affollare centri commerciali, le chiese e le sedi elettorali mi faceva ricordare scene dei film horror degli anni 70-80. Ma tra questa massa di popolazione c'era chi, attraverso qualsiasi mezzo, cercava di non morire, attaccando e rendendo pubbliche le nocività delle strutture di potere statale ecclesiastico. I Tarspok avevano particolari interessi per questi pochi individui. I messaggi che mandava questa frangia ribelle potevano essere molto pericolosi per la stabilità di qualsiasi forma di potere. Quindi i Tarspok cercavano di isolarli in qualsiasi modo, da rosicchiare i cavi elettrici e telefonici per non farli comunicare verso l'esterno, a farli passare attraverso i mezzi di comunicazione dei Tarspok più intellettuali come un pericolo per la Terra e i suoi abitanti. Spesso si arrivava al sequestro degli individui che venivano deportati nelle nicchie blindate dell'impianto fognario. L'obiettivo era quello di metterli in una sorta di quarantena, ma per molto tempo, lontani dalla città e in modo che non potessero infettare il resto della popolazione zombie. I Tarspok facevano da ganascia riportata tra la popolazione e il potere che era la ganascia fissa. La ganascia riportata è praticamente la parte della morsa che tende a schiacciare, a tenere stretto qualsiasi oggetto alla ganascia fissa. Quindi le intenzioni dei Tarspok erano chiare: controllare la popolazione in modo che non sfuggisse alle grinfie dei preti e governanti. Continuerà lunedì prossimo. E questa è la reazione, la diretta d'azione del 25 novembre, si è iniziato in questo modo, con un racconto che andrà avanti per il resto delle dirette il lunedì, fino a quando ci sarà fantasia per scriverlo. Allora, ricordiamo subito gli indirizzi per radiazione @autistici.org è la mail di radiazione, dove potete spedire testi, comunicati, qualsiasi scritto, date di iniziative, qualsiasi tipo di comunicazione e qualche consiglio per i libri, le letture che si fanno il lunedì. E anche se vi piacciono, invece di scrivere articoli sui siti contro l'autore che si legge, sarebbe più bello parlarne attraverso una mail. Invece per il blog è radiazione.noblogs.org, dove la controinformazione è aggiornata quotidianamente, dove potete andarvi a riascoltare tutte le dirette d'azione. C'è qualche documentario, prossimamente ce ne sarà qualcun altro, dove potete scaricarvi opuscoli, cd, manifesti, locandine, un po' di roba c'è. Quindi radiazione.noblogs.org, per la radio radiazione.listentumaradio.com. Oggi speriamo si ripartirà da zero, cioè no da zero, però si riparte da quella che è stata la puntata di lunedì scorso, visto che tra due blackout, un server morto e le continue cadute di connessione dopo la aver cambiato il server, quindi si è deciso di rifarne una nuova da capo e quindi ripartire da dove si era iniziati lunedì scorso. Ricordo che stiamo leggendo Veracruz, un romanzo sui pirati di Valerio Evangelisti. Quindi ora ci ascoltiamo un brano che è di Federico Salvatore, O Palazzo, brano in napoletano, però penso che è capibile, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la Veracruz di Valerio Evangelisti. Sei pazza, vire quando all'iccamazza stanno fuori a sto palazzo. Però sei pazza, solo sei già sguarramazza in distanza in sto palazzo. Ma sei pazza, quando a bamba le pupazza sono passate po' palazzo. Però sei pazza, chi s'invizza in do palazzo non scapizza per campà. Però sei pazza, vire quando a paparazza appustata a sto palazzo. Cose pazze pronte a cogliere in trallazza che se fanno in tuo palazzo. Cose pazze ma chi trasi in tuo palazzo te ne vuole una corazza. Cose pazze e addivente che la razza che nessuno può toccare. E così mentre aumentano i prezzi ogni cinta si stregna e si spezza. E sul canto a palazzo si zucano latte razzizza. C'è vorrei una raccolta per piazza, un bacino per sicchietti nozze, a fare un milione sputazzi alla casa tu palazzo. O palazzo, o palazzo. O sei pazzo come sciale e come squazzo, chi fa parte lo palazzo. O sei pazzo mentre il popolo s'annuzza ogni sabato capizza. O sei pazzo terremoto a tutte pizze e l'Italia carapiezza. O sei pazzo ma soltanto sto palazzo non è cazzo di sprofondà. O sei pazzo quando la gente lo palazzo sa fa rompere scugnizza. Che stia rompere scugnizza. O sei pazzo perché chi lo palazzo sanna rompe chi don pizza. Che stia rompe chi don pizza. O sei pazzo, sulla tassa in coppa a tazza c'ha da mettere un palazzo. O sei pazzo e povera nati nozze c'ha cattamma per cacà. E a così mentre aumentano i prezzi ogni cinta si stregna e si spezza. E sul canto a palazzo si sugano latte razzizza. C'è vorrei una raccolta per piazza, un bacino per sicchietti nozze, a parare un milione sputazzi alla casa tu palazzo. A parare un milione sputazzi alla casa tu palazzo. A parare un milione sputazzi alla casa tu palazzo. Lida l'indirizzo. L'indirizzo non lo vogliamo, 25 novembre ricominciamo. Lo conosciamo. Ricominciamo da dove ci siamo lasciati, sperando che stavolta non intervengano rotture di scatole nelle più differenti forme, giusto per ritornare ai protagonisti del romanzo Veracruz. Ci stiamo muovendo tra un'orda di pirati nel Mar dei Caraibi verso la fine del XVII secolo e siamo arrivati con un manipolo di questi avventurieri che sono stati mandati in avanscoperta nella città di Veracruz, dove hanno reclutato un altro nuovo pirata, un personaggio che accompagnerà la nostra lettura, Ravenau de Lussan, che è un medico, un chirurgo senza carta, senza laurea, come si direbbe oggi, ma un chirurgo che si è formato sui campi da battaglia di mezza Europa. Questi pirati erano a bordo di una pignazza, che era una nave tipica di una sola vela, e stavano sgattaiolando via, facendo ritorno alla flotta dalla capitale della Nuova Spagna. Si gonfiava sotto la spinta di venti leggeri di nord-est. La vela aurica, issata a braccia, fu tesa dalle folate. L'imbarcazione scivolò al largo, schivando i vascelli alla fonda. Incrociò, poco più tardi, El Santo Espiritu, ma l'oscurità era scesa e non fu avvistata. Pierre Bot accise un cero racchiuso nel suo abitacolo di ferro, subito assediato da torme di insetti, e chiese a Pedro Insiguerra, il filibustiere corso, che reggeva il timone: «Insomma, cosa avete scoperto?» «Ci sono vari fortilizi in città», rispose il corso. «La calata a nord, il baluardo Santiago, il baluardo San José, ben difesi con una decina di cannoni ciascuno. Ma nel caso di un attacco da terra, risulterà decisiva la polvora. È una costruzione quadrangolare, possente, ai margini meridionali della città. Di cannoni ne ha 6 ed una 30 di soldati di guarnigione. Noi saremo molti di più. Sì, ma la postazione è solida. Malgrado ciò, il vero nemico è un altro.» «Stai zitto, menagramo!» esclamò le schelette da prora. «Risparmiaci le tue litanie!» Pierbot fece un gesto seccato. «Stai zitto tu, carcassa!» Si accostò a Vinciguerra. «Parla liberamente. Chi sarebbe il nemico reale?» Il corso apparve rabbrividire. «Le malattie! Dietro Veracruz ci sono paludi sconfinate, i loro miasmi assediano la periferia e sono trasportati dalla pioggerellina costante e dal vento impetuoso. Quest'ultimo dovrebbe purificare, invece l'orda. La città gronda infermità, vi si muore a grappoli.» «Stai esagerando!» Bot fece spallucce. «Ho incontrato spagnoli in perfetta salute. Erano i ricchi! I ricchi se la cavano sempre, non così disgraziati. La bruma, alternata al vento, li uccide a poco, Veracruz fu fondata dal demonio.» Pierbot manteneva il suo atteggiamento scettico. «A quanto ne so, fu fondata da Hernán Cortés.» «Sì, ed è questo che voglio dire. Fu cambiata 3 volte di ubicazione per sfuggire alla presa dei pantani circostanti. Cortés pensò di vincere i morbi di cui ignorava la natura, ma si illudeva. I suoi uomini continuavano a cadere come mosche. La maledizione non era naturale, era diabolica.» Ravenau de Lussan cercava di srotolare alla base dell'albero maestro l'involucro di coperte in cui avrebbe passato la notte, e sogghignò. «Quell'uomo, che cos'è, un italiano? Non è fatto per portare il buon umore. Adesso ci parlerà di malocchio e di reste d'aglio come contro tutti gli spiriti.» «Sono corso!» protestò Vinciguerra con veemenza. «Peggio ancora! Sulla vostra isola siete 4 gatti e per passare il tempo vi raccontate delle favole.» Questa volta Pierbot intervenne con decisione. «Non siete ancora un fratello della costa, signor de Lussan. Guardatevi dal criticare un avventuriero o vi getto ai pesci.» Squadrò Vinciguerra. «Quanto a te, risparmiaci leggende e superstizioni. Cortés non era il diavolo, né una vittima di Satana. Però ha ucciso molti indigeni per fondare Veracruz. Le loro anime inquiete sono ancora là, pronte a invasare chi si appropri della loro terra.» «Il corso è mezzo pazzo», osservò Big Willy con il suo accento esotico e gutturale. Anche lui si preparava a dormire sul ponte. «Tuttavia ha ragione per ciò che riguarda il clima. La città è insalubre. Le paludi emanano miasmi letali. Ci sono vari ospedali, uno dei quali destinato ai negri malati di petto. Si sa, gli schiavi non campano a lungo.» Bot alzò le spalle. «Non andiamo a Veracruz per soggiornarvi, ma per saccheggiarla. Che ci importa del clima?» L'osservazione, più che logica, pose fine ad ogni controversia. Macari, che era stato scelto per il primo turno di guardia, sedeva a cavalcino del Bonpresso, scrutando il mare. Aveva prestato un'attenzione superficiale alle conversazioni. D'un tratto sobbalzò. Aveva scorto 3 luci distanti in movimento. Un vascello a babordo! Esclamò. Non è una nave lunga, forse una goletta, un brigantino a due alberi! Pierrot fu lesto ad aprire la gabbietta di vetro del fanale e a soffiarne sullo stoppino della candela fino a spegnerlo. Non possono averci visti, disse ai compagni. Di sicuro non sono dei nostri. Siamo troppo vicini a Veracruz. Devono essere spagnoli o loro alleati. Abbandoniamoci al vento che abbiamo a favore e in pochi minuti saremo fuori portata. Dal buio si levò la voce perennemente sardonica di Raveno de Luzon. Mio capitano, pensate quale gloria sarebbe per voi raggiungere i vostri compagni su una nave di stazza superiore a questa miserabile scialuppa. Apparire a bordo di un veliero armato di tutto punto, non so chi siano i vostri capi, ma ne sarebbero contenti. Voi siete matto. La replica di Pierrot fu fredda, per quanto incrinata da un'ombra di dubbio. Siamo soltanto in sette, in un numero simile non si prende nessuna nave, né piccola né grande. Non temiamo la morte, ma nemmeno corriamo al suicidio. De Lussan rise apertamente, provocatorio. Avrebbe irritato la più mite delle persone. Su via, Capitan Bot, di quale suicidio mi parlate? Si sa che gli uomini della tortuga non progettano di vivere a lungo. 7 contro 50 o 60, e dov'è il problema? L'Olonnais, il mitico Olonnais, assalì su modeste piroghe i suoi primi galeoni. Lo stesso fece Levasseur. Avete dalla vostra il fattore sorpresa. Considerate il credito che una preda di grosso taglio vi procurerebbe. Dopo un lungo silenzio si udì la voce di Lever, che parlava di rado. Capitano, penso che quest'uomo abbia ragione. Sarebbe un peccato perdere la selvaggina. È l'occasione di rientrare con un'imbarcazione migliore di questa. Ma siamo in sette, protestò Pierrot. E con tutto il rispetto, quanti pensate che siano gli uomini di guardia sul ponte a quest'ora? 4 o 5 al massimo. Facili, da sorprendere e da sgozzare. Lever tirò il pollice all'ingiù. Propongo di attuare la vecchia trappola. Azione rapida, tutti a bordo. Se ci sarà da combattere, si combatterà. Si levarono mormori, però fu subito chiaro che l'istinto predatorio dei pirati prevaleva, come sempre, su ogni altro calcolo. Pierrot lo intuì, non attese esplicite manifestazioni di volontà. Eh sì! Cercheremo di prendere quella nave che se è questo che volete, mormorò. Puntò un dito su Raveno de Luzon. Quanto a voi che siete l'istigatore, state in guardia. Rischiamo di non portare al cavaliere de Gramont le informazioni necessarie per la conquista di Veracruz. Non vi perdonerò alcun atto di viltà. Come fa Van Horn con i suoi equipaggi, un solo passo indietro durante l'assalto e vi ucciderò sul posto. L'impegno vale anche per i miei compagni, nel caso io fossi già morto. De Lussan non sembrò per nulla intimorito. Non devo certo esservi molto simpatico, replicò con un sogghigno, ma fidatevi di me, so battermi senza risparmio, lo vedrete. Macari conosceva la leggendaria inflessibilità di Van Horn evocata da Bot. Bastava che qualcuno della sua ciurma chinasse il capo, arretrasse o schivasse un duello perché l'olandese ghiasse la gola. L'imperativo ebile è una morte certa. E di chi navigava con Van Horn superava quella di cui godevano Lorenzillo e lo stesso de Gramont. Era il capobranco ideale, feroce e rispettato in quanto tale. Macari si propose di sorvegliare de Lusson. Adesso però aveva altro a cui pensare. La vela della Pignazza fu orientata da Big Willy per prendere il vento di Bollina. Nascosto nell'oscurità, corse verso il vascello da catturare, reso bersaglio visibile dai grandi fanali di poppa. Pierrot sibilò gli ultimi ordini. Preparate le armi, specie quelle da taglio, daghe accette soprattutto. Passate uno sciabolotto a De Lussano in sostituzione di quell'inutile cazzoletta indegna di un maschio. Abbiamo grappini d'abbordaggio? No, signore, rispose Lever. Però mi sembra che dalla fiancata degli spagnoli penda una biscaglina. E allora appena vicino alla fiancata ci si inermica, rapidi, poi si uccide chiunque sia sulla tolda, nel massimo silenzio, intesi? Non vi fu risposta, e ciò equivaleva ad un'espressione di consenso. Sul ponte dell'imbarcazione si vedeva solo ciò che consentiva la luna, in un cielo scuro ma limpidissimo, pieno di stelle. Macari frugò nel suo sacco e ne trasse due pistole già cariche, ne infilò una nella cinta. Dubitava che l'altra gli sarebbe servita, poi prese una navaja, un coltello a serramanico di dimensioni enormi, molto caro alla canaglia spagnola dei bassi fondi di Madrid. Poteva incrociare una spada, ma soprattutto era buona a sbudellare. Governata da Big Willy alla vela e da Petrovinci Guerra al timone, la Pignazza si accostò al veliero. Era tutt'altro che imponente. Un semplice brigantino goletta a due alberi, dalla prora affusolata e privo di castello a poppa. mostrava 3 cannoni impiantati a tribordo sulla tolda, dunque, considerando l'altro lato, 6 in tutto. Un legno mediocre, ma capace di difendersi. In effetti, una biscaglina pendeva dalla fiancata, l'imbarcazione navigava tutto a collo, con i coltellacci del trinchetto spiegati. Aveva fretta di arrivare in porto, evidentemente. «Orza alla banda!» comandò Pierbotto a Vinciguerra quando fu il momento giusto. La Vignazza arrestò il proprio moto senza toccare di un soffio la nave da catturare. Bo fu il primo a balzare sulla biscaglina e a inerpicarsi con la daga fra i denti. Gli altri lo seguirono veloci. L'ultimo ad abbandonare la Vignazza al suo destino fu Big Willy, che faticò non poco a salire a causa della corporatura massiccia. Quando Macari scavalcò l'impavesata e mise piede sulla nave nemica, il massacro era già cominciato. Con un colpo di sciabola, Pierbotta aveva fracassato il cranio di un ufficiale di guardia. De Lussan, per mostrarsi all'altezza, pugnalava il ventre il timoniere, che non si decideva a crollare e restava barbicato alla sua barra. Leverta aveva aperto la gola a 2 marinai, colti di spalle con pochi colpi di misericordia. Lesco al sud, un uomo robusto, dopo avergli conficcato indice e medio negli occhi. Il tutto avveniva in silenzio per il momento. Il sangue cominciò a scorrere sul ponte del veliero e a scivolare verso i boccaporti. Forse gocciolava tra le assi. Dal corridoio di sotto vennero rumori. «Pronti!» avvertì Pierbotto. «Stanno per uscire!» Con 2 balzi si portò di fianco agli urli dell'apertura principale e si acquattò come una scimmia. Al suo lato si mise Big Willy, che impugnava una scure. Ah! E loro erano Zamboy con il brano Pirate Hooker, nemmeno fa la posta che si addice alla lettura. Ora andiamo avanti dopo la prima lettura di Veracruz con la controinformazione, andando in Spagna, a Navarra, che è una regione autonoma della Spagna, dove i compagni della biblioteca Durruti fanno uno scritto in solidarietà con Monica e Francisco. Allora, il 13 novembre 2013 i mass media borghesi ci hanno informato dell'arresto di 5 compagni a Barcellona, sbattendo i loro volti nelle nostre case senza permesso. Inoltre, senza per nulla conoscerli, li hanno già accusati e condannati per qualche attacco al potere della Chiesa. Questa stessa merda di mass media che in un solo giorno hanno vestito i panni della polizia, di pubblici ministeri e carnefici, parlano di anarchici come se fosse questione di un'epidemia. E l'epicentro di questa sarebbe Barcellona. Sappiamo bene i censori del divieto o gli scrittori dei tempi moderni che gli anarchici sono ovunque nonostante loro. Riconosciamo nei gesti e nelle persone di Monica Caballero e Francisco Solar le prospettive anarchiche e lo scopo della giustizia nella libertà. In questo fiume che conduce all'anarchia ci sono molti affluenti ed i gesti di questi due nostri compagni fanno parte di esso. Riconosciamo a questo compagno e a questa compagna anarchici detenuti della nostra negligenza a non aver dato un segnale di appoggio prima di adesso e chiediamo ai compagni affini ad essi se possono fornire il loro indirizzo attuale per dirlo direttamente ad essi. Le circostanze estreme in cui si trovano i nostri amici e compagni detenuti adesso sono conseguenti abusi fisici e psicologici regolari nelle stazioni più che mai che alla frase fin qui tanto gridata non siamo tutti, mancano i detenuti. Senza seguire tempi imposti e l'agenda della repressione e con lo stesso supporto dei guardiani del potere dei mass media, nel nostro piccolo faremo il meglio per far sì che i nostri compagni non restano da soli. Il nostro paese e il mondo intero, la nostra legge, la libertà. Solidarietà ai nostri amici e compagni Monica Caballero, Francisco Solar, con amore e anarchia, Biblioteca Durruti. E questo era lo scritto dei compagni spagnoli. In solitaria con Francisco e Monica, noi mandiamo invece un vaffanculo a chi ci chiama De Suca Minchia in chat, nella chat della pagina streaming di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cat Rapes Dog con il brano Motorbed e poi dopo si torna qui e si ritorna con la lettura di Veracruz. Pochi istanti dopo, un marinaio armato di schioppo con la canna imbuto salì la scala che emergeva dai recessi del brigantino e affacciò il capo. Big Willy fece roteare la scura e la calò sul cranio del malcapitato, fendendolo come un melone. Il corpo quasi travolse un secondo uomo che cercava di uscire, una sciabola in pugno. Pierbotti trafisse la gola con il pugnale e gridò ai compagni: agli altri bocca porti, adesso cercando di sbucare da là. Macari obbedì e raggiunse il boccaporto di prua con Levert, mentre le scolette e Vinciguerra si tenevano in agguato accanto a quello di Poppa. Un marinaio, un negro, emerse e Macari gli scaricò la pistola in piena faccia. Quello agitò le braccia e cadde all'indietro. Seguirono alcuni minuti di silenzio. Poi dal basso si sollevò una vera tempesta di colpi di pistola, di schioppo e di moschetto. I prigionieri dei ponti inferiori miravano non solo al vuoto spalancato sopra le loro teste, ma anche alle posizioni in cui presumivano si trovassero i pirati. Palle perforarono la tolda, sollevando migliaia di schegge. Poi il fuoco si calmò per i tempi lunghissimi della ricarica. Colpi di tosse vennero da sotto coperta. I difensori della nave soffocarono nel fumo che avevano prodotto essi stessi. Pierbot, sempre a guardia con Big Willy del boccaporto centrale, pensò di trarre profitto dalla circostanza. «Chiudete le aperture!» gridò. «Con assi, con lembi di vela, con tutto ciò che trovate!» Fu facile. Le vele di rispetto erano ammassate ai due lati dell'impavesata. Macari e Levert ne tesero una sul boccaporto di prora e la fissarono con tutti gli oggetti pesanti che avevano attorno. Attinta con un mestolo l'acqua dolce di barile sotto il trinchetto, posto là perché i marinai afflitti dal calore potessero dissetarsi, e bagnarono la stoffa. I colpi di tosse in basso si moltiplicarono. Subito dopo, la tela si tese sotto la spinta di un corpo che cercava freneticamente di lacerarla. Macari prese la sua unica pistola ancora carica, calcolò la mira e sparò. Una macchia di sangue imbrattò il tessuto che tornò teso come prima, salvo un foro dagli orli rossastri. Pierbot si chinò verso il boccaporto centrale che controllava, schermato più o meno allo stesso modo. «Arrendetevi!» urlò in spagnolo. «Venga fuori per primo il vostro capitano, le mani alzate! Abbiamo mille modi per farvi morire nella sentina come sorci!» Immediatamente la stoffa della tela che bloccava il boccaporto si alzò, rovesciando le carabattole che la tenevano fissa. Ne sbucò un personaggio che tossiva con discrezione in un fazzolettino. All'aria aperta alzò le mani. Era elegantissimo, vestito di rosso con alamari dorati. Dalla cinta gli pendeva una sciabola. Interruppe il gesto di resa solo per sollevare il tricorno calcato sulla parrucca bianca. «Ci arrendiamo», disse in francese. «Ma chi siete?» «Ditemi chi siete voi, piuttosto», replicò Pierbot con durezza. L'altro abbozzò un freddo inchino. «Capitano, io sono il comandante Henri Michel de Louis de Poncher, conte di Lézigny, della Marina di Sua Maestà Luigi XIV, re di Francia». La rivelazione scosse Macari come tutti i suoi compagni. Si erano impadroniti di una nave francese. Non lo so pensare della collera del governatore della Tortuga e dello stesso De Grammont, una volta appresa la notizia. Tremolio nella voce di Pierbot rivelò che, pur tentando di fingersi impassibile, condivideva la stessa preoccupazione. «Com'è possibile? Una nave francese in prossimità di Veracruz? Come dire in bocca al nemico?» Il conte di Lézigny sollevò un sopracciglio. «Vedo, signore, che non siete al corrente del trattato di Nimega, che ha riportato la pace tra Francia, Olanda e Spagna, eppure è di ben 5 anni fa. L'intro, diretto proprio a Veracruz, per acquistarvi stoffa e portarvi corrispondenze e gioielli, si sta pian piano ripristinando un commercio normale, ma torno a chiedervi, voi chi siete? Avete un accento francese». Il tono del gentiluomo si era fatto altezzoso. Forse stava intuendo la verità. «Non vi riguarda», gli gridò Pierbot con foga eccessiva. «Restate dove siete e non osate muovervi. Devo consultarmi con i miei uomini». «Mentre vi consultate, posso far salire gli ufficiali e i marinai che si trovano sotto coperta? Quanti sono?» «Una quindicina. Stanno soffocando per il fumo». Adesso il conte parlava con un timbro fra l'altezzoso e l'irridente. Era sempre più sicuro di se stesso. Esasperato, Pierbot estrasse una pistola dalla cintura e ne sollevò il cane. «Non ci pensate nemmeno, guai a voi se fate un solo passo». I pirati e De Lussan fecero capannello sotto il trinchetto, pur mantenendosi guardinghi. «Non c'è alternativa», disse Botto in fretta sottovoce. «Dobbiamo ammazzarli tutti». «Ma sono dei nostri», obiettò flebilmente Macari. «Gli ordini di Lorenzio, di Vanoni, di Grammont non contemplano di sicuro...» «Non capite, imbecille!» Pier Botto era incattivito e non mancavano i buoni motivi. «Il guaio l'abbiamo già combinato. Il meglio che ci può succedere è che il cavaliere ci faccia impiccare. Il peggio potete immaginarlo». Levert allargò le braccia. «Ma De Grammont stesso parlava di una spedizione in barba ai vari trattati». «Sì, ma certo non prevedeva un attacco diretto alla marina francese». Bot scosse il capo. «Ciò che ci tocca fare è chiaro, il problema è il come». «Diamo fuoco al brigantino e torniamo sulla Vignazza», propose l'escheletto. «Non l'abbiamo legata, adesso chissà dov'è». «Va bene, ci penso io. Beguilli, tieni pronta la tua scure. Sai uccidere un uomo senza che gridi». «Sicuro, basta colpirlo proprio in mezzo al cranio», rispose il colosso. «E allora andiamo. Che nessuno dica una parola, a parte me, ne va della vita di tutti». Il conte di Lesigny era rimasto accanto al boccaporto centrale a braccia incrociate. Batteva con impazienza il piede destro. Vedere tornare i pirati in gruppo smorzò il suo nervosismo. «Signore», gli disse Pier Bot, «abbiamo deciso di risparmiare la vita vostra e dei vostri uomini. Serviamo anche noi la Francia, vi avevamo scambiati per spagnoli. Vi chiedo umilmente scusa». Il conte fece un sogghigno. «Un tribunale in terra francese deciderà della vostra sincerità per servirvi. Al momento, però, siete voi a essere mio prigioniero». «Devo prendere le mie precauzioni», disse Botto. «Ordinate al vostro equipaggio di deporre le armi e di uscire ad uno, le mani dietro la nuca. Sulla scala deve esserci un uomo alla volta, non di più. Mi avete inteso?» Il viso del gentiluomo si indurì. «Badate, amico mio, che davanti ai giudici questa sarà un'aggravante. Rischiate la forca!» «E voi rischiate la pancia!» Pier Botto spinse la canna della pistola contro il ventre del conte. «Fate come vi ho detto, non ho tempo da perdere». De Luigny deglutì, ma si affrettò a ordinare ai suoi di disarmarsi, di salire sulla tolda nel modo che l'altro aveva suggerito. Subito dopo, Bot gli mise un braccio dietro le spalle e lo trascinò verso l'impavesata con una stretta che si sarebbe detta cordiale. Gli bisbigliò all'orecchio: «Che onore poter dialogare con un nobile del vostro rango. Non vi ho ancora detto il mio soprannome. È squalo, come gli amici che vi aspettano in mare». Fece lo sgambetto al conte e lo proiettò fuori bordo. Non fece caso al suo grido soffocato in quel momento. Dopo il rimestio delle armi posate a terra sotto coperta, il primo dei prigionieri stava salendo la scaletta. Tossiva ancora, aveva le mani dietro la nuca. Barcollò sul ponte. L'abito faceva capire che si trattava di un ufficiale. Pierbo fece un cenno silenzioso a Beguelli. Lascia fendette il cranio del disgraziato che si abbatté come un birillo, spandendo attorno sangue e materia cerebrale. Macari e Scoletta allontanarono il cadavere dal boccaporto tirandolo per i piedi. L'operazione si ripeté 7 volte. Poi Beguelli, esausto, passò la scure grondante alle verti. Questi, benché di taglia piccola, proseguì nella bisogna. Caddero marinai semplici, un mozzo dodicenne, uno schiavo africano, un cuoco cinese, finché dell'Intrepid nessuno rimase vivo. Fiotti di sangue correvano sul ponte ad ogni rullio. Il lezzo ferrigno disgustoso prendeva alle nari. Getti vermigli colavano dagli ombrinali. Nessuno osava parlare. Solo De Lussan osservò a mezza voce: «Che diavolo mi porti con questa gente? Completerò i miei studi di anatomia». Pier Bot non lo richiamò nemmeno, era troppo stanco. «Io sto alla barra per qualche ora. La velatura mi sembra abbastanza ridotta da tenerci in panna. Vedete di dormire, domani dovremo camuffare la nave e ribattezzarla. La storia dell'Intrepid si conclude stanotte». Macari cercò nel ponte inferiore un posto in cui riposare. Non ne trovò. Il veliero era troppo piccolo, le amache si toccavano e chi avesse voluto dormire al suolo sarebbe stato assediato dagli scarafaggi. Allora risalì in coperta, carico dei suoi averi, e distese un panno sul ponte. C'era vento, ma almeno non c'era puzza. Posò la testa sul sacco e si addormentò all'istante. Lui era Tommy Stanfa con il brano Massacre. Noi continuiamo con la controinformazione. Si è trovato un testo sul sito di Anarchaos e si è deciso di postarlo anche sul blog di Radiazione. Lo scritto è firmato con una firma strana, Benedetto Spinoza, ed è da come titolo una pinolfi e un cazzo. Leggiamo il testo. E chi scrive queste riflessioni è da qualche anno critico, ma mai sulle pratiche, figuriamoci sugli obiettivi, sempre meritori e trattati anzi fin troppo bene, ma sull'individualismo e sul nichilismo, preferendo il vecchio sano insurrezionalismo di massa. Non si può negare che il processo per la gabbizzazione di Adinolfi ha segnato una svolta cruciale e da oggi in poi i complottisti se ne devono stare zitti. I compagni imputati hanno infatti rivendicato l'azione in aula, un gesto coraggioso che gli è costato condanne intorno ai 10 anni, esattamente 10 anni e 8 mesi ad Alfredo e 9 e 4 mesi a Nicola, ma che soprattutto chiude la bocca a quelli che soffiano sul fuoco sempre vivo della dietrologia. La dietrologia sulle azioni rivoluzionarie, va detto, è storia antica. In Italia è stata alimentata per sconfiggere l'insorgenza armata degli anni 70, dove almeno 300 sigle di gruppi armati con le migliaia di azioni realizzate sono state incanalate dal PC nel calderone del complotto, servizi segreti, CIA, fascisti, eccetera, eccetera. Dietrologia che ha colpito anche la Federazione Anarchica Informale. Quante volte è stato scritto che erano provocatori, infiltrati, agenti dello Stato? Un complottismo tanto più fastidioso in quanto le decine di persone inquisite a vario titolo in inchieste legate a questa galassia rivoluzionaria, dagli indagati agli arrestati, passando per coloro che hanno subito perquisite, eccetera, eccetera, non hanno mai fatto uso, nemmeno retorico, della tesi complottistica per difendersi, né di chi ha rifiutato l'avvocato, né chi si è difeso, né chi non ha risposto alle domande del PM, ma nemmeno coloro che hanno risposto cercando di discolparsi, che fosse individualista o comunista, nichilista o ambientalista, per l'antigiuridismo anarchico piuttosto che innocentista, persino per chi ha dichiarato di non essere nemmeno anarchico, ma di essere finito lì per la mente malata di un PM di Perugia, persino chi, come Damiano, morto pochi giorni fa, è stato arrestato per una scritta sul muro, nemmeno il sindacalista CGL finito tra i perquisiti per la sola colpa di conoscere il sospettato, ebbene nessuno, e dico nessuno, insisto, nessuno ha scelto la via complottista per migliorare la propria posizione. Nonostante ciò, i complottisti hanno continuato a colpire tutta gente che non è stata minimamente sfiorata dall'inchiesta, ma che come una fogna ha continuato a rigurgitare merda sulla strada che porta all'anarchia. Con le dichiarazioni di Alfredo Nicola le cose cambiano definitivamente. Come si fa a sospettare che le azioni degli informali sono opera dei servizi segreti piuttosto che degli extraterrestri, quando due compagni hanno messo a testa alta di avere realizzata una in una splendida mattinata di maggio? Certo, i complottisti ne sanno sempre una più del diavolo. Già mi pare di sentirli esclamare. Guy e Cospito hanno detto di non conoscere nessuno altro membro e di aver agito da soli, quindi da loro è un'eccezione, ma tutte le altre azioni sono state fatte dal Mossad o da Belzebù, o da chi per voi. Insomma, l'arco dei complottisti è pieno di frecce e dovremmo cavarcene altre dal culo nei prossimi anni. Anche perché sono incazzati e imbarazzati. Ricordate tutta la fogna che emise i suoi sgradevoli odori nelle ore successive alla gambizzazione di Andinorfi? Ricordate la Federazione Anarchica Torinese che parlò di bombe annunciate da Pisanu per le azioni realizzate contro il CIE? Ricordate chi ridicolizzava il pacco bomba a Prodi spento con una ciabatta? Ricordate chi disse che le pallotte alla Lorenzetti erano un atto mafioso? Ricordate chi disse che i pacchi bomba alle ambasciate erano criminali perché colpivano governi latinoamericani di sinistra e ferivano i collaboratori? Ma più di ogni altra, come dimenticare tutti quei comunicati deliranti complottardi di presa di distanza con il quale siamo stati bombardati dopo l'azione di Andinorfi? Che fino hanno fatto tutti quei prenditori di distanza e puntinatori di... Stanno sicuramente rosicando, non si sa se ha fatto più male la pistolettata da Andinorfi o il calcio in bocca ai complottisti. Tutto questo senza rinunciare al diritto di critica, senza rinunciare a pensare che occorra una sollevazione popolare, un'insurrezione di massa come quella del 19 luglio del 36, dove a sparare e a prendere fucili sono decine di migliaia di operai anarchici. Una critica che costa duro a chi ha il coraggio di farla, finendo bombardato sia dai complottisti sia dal fronte opposto. Una critica che però non vende mai i propri compagni a nemico e che rimane fedele ad un principio che, so non piacerà agli amorali questa parola, per me è un principio di etica: stare sempre e comunque dalla parte di chi spara al padrone. Benedetto Spinoza. E questo è lo scritto uscito qualche giorno fa su Anarcho-Chaos, come dicevo, l'ho letto, mi era piaciuto e quindi ho deciso di riportarlo su Radiazione. Per quanto riguarda tutto quello che concerne l'azione rivendicata a Fede Nicola, ne abbiamo già parlato ampiamente. Ricordo che sabato prossimo a Napoli, allo Spazio Anarchico 76, ci sarà un incontro, l'ennesimo, a testa alta, chiamato a testa alta dal nome dello scritto che è stato fatto all'inizio quando c'è stata la convocazione degli incontri, su cui si parlerà sul dopo sentenza che è avvenuta a Genova il 12 novembre scorso con le condanne di Alfredo Nicola, e poi da dove iniziare a ripartire. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono in Ambo, il brano Lies, e poi dopo si torna qui con la lettura di Vera Cruz di Valerio Evangelisti, che non è per chi gli ruota il culo, che si fa paranoie ideologiche. Evangelisti, lo ricordiamo, è uno scrittore che si è limitato a scrivere romanzi, non ha fatto testi ideologici. Allora, Numb, il brano. Occorsero 2 giorni per cancellare ogni traccia del massacro e per modificare il più possibile l'aspetto dell'intrepido. Una scritta dipinta a poppa e ripetuta sotto il mascone di babordo identificava il brigantino Goletta come Le Dirigeant. Furono dipinte di azzurro le impalesate, di rosso i fregi. La vela aurica dell'albero maestro fu sostituita con una triangolare. C'erano vele in abbondanza sotto coperta. Per di più, dal trinchetto fu rimosso l'alberetto perché apparisse più basso. Soddisfatto del lavoro, Pierbotto convocò gli uomini a prora. Ora giurate nel nome di Dio Onnipotente, porco diavolo, che non racconterete a nessuno quanto è accaduto a bordo di questo legno. E come faccio a giurare? Obiettò Ravenò dell'Ussan beffardo come sempre. Io non credo in Dio. Giurate ugualmente, redarguì Pierbotto. Sarà Dio a colpirvi se gli mentirete. Che voi crediate in lui oppure no. Tutti giurarono, alcuni si fecero. Forse non era grande, ma 6 uomini per farla navigare erano pochi, specie in mancanza di nostromo e ufficiali. Per fortuna il mare era calmo e la brezza costante e tranquilla. Dove si trovassero con esattezza non era chiaro a nessuno. Il solo Macari aveva qualche cognizione di astronomia e, se avesse avuto a disposizione un astrolabio, avrebbe potuto determinare in via approssimativa la loro latitudine. Non trovò però uno strumento del genere, quindi calcolò ad occhio che si trovassero circa a metà della rotta che univa Veracruz al campo marino di Campeche, a nord dello Yucatán. Pierbot stava per ordinare di prendere terra in qualche isoletta al fine di rifornirsi di acqua e interrogare eventuali indigeni, quando dalla coffa Vinci Guerra lanciò il grido tanto atteso. «Navi in avvicinamento! Sembrano 4, 6, 11, no! Molte di più, le riconosco! Il La Francesa e Le Hardy sono i nostri!» Tutti, salvo Levert che era la barra del timone, corsero a prua e scrutarono il mare coperto in quel punto di fuchi porporini che si aggrovigliavano alla chiglia. Occorse un paio di minuti perché la flotta fosse in vista, ma lo spettacolo compensò la pena dell'attesa. Disposti su un'unica linea, 16 velieri di varia foggia e dimensione fendevano le onde a velatura spiegata, alzandosi ed abbassandosi tra la schiuma. Così schierati, davano un'impressione di invincibilità. Si trattasse dei possenti brigantini di De Grammont, Van Horn, Lorenzillo o dei legni di stazza inferiori carichi di uomini e cannoni degli altri capitani. Prima che la visione si allargasse, giunsero i nitriti dei cavalli rinchiusi nelle stive e le note allegre delle orchestre di bordo che davano il ritmo al lavoro. «Urrà!» gridò Pierbotte, si tolse il tricorno e lo sventolò. «Urrà! Urrà!» Il grido fu ripreso da tutti. «Urrà! Urrà!» Pur partecipando all'entusiasmo generale, Big Willy domandò: «Cerca uno straccio nero qualsiasi e installo sul padiglione dell'albero di maestra!» L'irlandese scomparve nel boccaporto centrale e scese la scaletta ancora impregnata di sangue secco. Ne uscì reggendo un mantello di velluto nero, forse appartenuto ad uno degli ufficiali assassinati. Lo portò lui stesso a Vinci Guerra arrampicandosi veloce sulle griselle. Attimi dopo lo stendardo improvvisato sventolava sul padiglione. Fu salutato La Francesa, che issò a sua volta la Jolie Rouge, il lugubre stendardo dei fratelli della costa con teschio e clessidra. In tutta la flotta i gabbieri si inerpicarono sui pendoni per festeggiare gli amici ritrovati. Mentre era nel corridoio degli alloggiamenti per riempire il proprio sacco Macari, si scoprì accanto il poco gradevole Ravenò de Lussan, che per 3 giorni aveva occupato un'amaca vicino alla sua nei rari momenti di riposo. Era intento alla stessa bisogna. «Anche voi intendete abbandonare le diligence un tempo chiamato Intrepide?» gli chiese il Medicastro. «Devo farlo, sono secondo ufficiale sulla Francesa, obbedisco a Lorenzillo». «Ditemi la verità. Potreste rimanere su questo brigantino solo che ha il fetore di un obitorio. Vi ho osservato durante la mattanza, eravate il meno convinto. E tuttavia uccidevate come gli altri, perché?» Macari si irrigidì. «Sono un soldato, obbedisco agli ordini di chi mi comanda, vi meraviglia?» «Ah, questa normalmente è la scusa dei vigliacchi!» De Lussano attenuò con una risata la gravità delle sue parole. «Oh, non che io vi consideri un vile, è evidente che siete devoto alla causa ed è chi l'incarna. Il problema è... quale causa?» Macari lo fissò a muso duro. «E ditemelo voi!» «È inutile chiedere a me risposte che non sapete darvi da solo!» De Lussano calò di tono da ilare a sardonico. Insaccate le vostre cose come sto facendo io, ci si ritrova su qualche altra imbarcazione. Le diligent avrà un equipaggio diverso, meno sensibile al suo afrore di morte. Appena un'ora dopo Macari si ritrovò sulla barcaccia che a colpi di remi puntava sulle Ardi. A bordo, oltre a lui, c'erano Pierbot, Levert e Vinci Guerra, questi ultimi addetti alla voga. In cima alla biscaglina il cavaliere de Grammont li attendeva a braccia conserte, leggermente impaziente. Non sorrideva, era assurdo pretenderlo da lui. Tuttavia, l'espressione del suo viso austero era bonaria, quasi cordiale. Attese che i marinai avessero aiutato i visitatori a mettere i piedi sul ponte e disse a Pierbot: «Vedo che l'esito della vostra missione è stato felice e che ci portate un nuovo legno. Dove l'avete catturato?» «Al largo di Veracruz. La nostra pignazza si è imbattuta per caso in questa goletta spagnola. Si chiamava El Diligente. Mi sono limitato a tradurre il nome in francese. L'equipaggio? Il capitano? Oh, li abbiamo fatti salire sulla nostra vecchia imbarcazione. Adesso, se sono fortunati, saranno già a terra.» De Grammont corrugò la fronte. «Oh, potrebbero avvisare Veracruz che siamo in queste acque.» «Ah, non preoccupatevi», rispose Pierbot con disinvoltura. «Dubito che abbiano realmente capito chi fossimo e, se approderanno, sarà ben lontano dalla città. Vi porto molte informazioni utili.» «Ah, sì?» Gli occhi grigi del cavaliere si illuminarono. «Ci speravo, seguitemi!» De Grammont si avviò verso il quadrato di poppa imitato dallo svizzero. Macari e Levert rimasero sul ponte appoggiati all'impavesata, mentre sotto di loro Vinci Guerra, restato alla guida della barcaccia, manovrava i remi per non farsi distanziare dalle Ardi. Ciò richiedeva parecchia energia perché il brigantino, come il resto della flotta, aveva il vento a favore e scavalcava rapido le onde. Sulla nave di De Grammont tutti avevano ripreso le loro attività e facevano poco caso ai nuovi venuti. Levert accese con gesti metodici la pipa e al primo sbuffo disse a Macari: «Ho visto che hai preparato il sacco con i tuoi vestiti, vuoi lasciare il diligent?» «Devo farlo, dovresti anche tu, Lorenzio ci aspetta sulla francesa.» «Pierbot non può governare la nave catturata con due uomini soltanto.» «Oh, ma ne troverà altri, ognuno dei nostri vascelli è sovraccarico, non mancheranno i volontari.» Macari fece una pausa, riprese a parlare sommessamente. «La verità è che Bot non mi piace. Ha disobbedito agli ordini, ci ha trascinati in un inganno. Le diligent, una nave maledetta, e forse lo siamo un po' anche noi. Ci è stata imposta la menzogna e l'abbiamo accettata. Abbiamo imbarcato Ravenodolus, anche pare un'incarnazione del maligno. Spero che tornare con Lorenzio mi allontani da crimini e peccati, anche se non potrà cancellarli.» Levert sorrise. «Parli come Vinci Guerra, da te non me lo aspettavo. Parlo da uomo che sa che il mare non è solo acqua. Ha un suo spirito e detta regole. Chi le viola deve tenersi pronto ad una punizione crudele. Allora il mare sarebbe Dio?» «No, ma è lo specchio in cui Dio si riflette. Guai a chi infrange il suo ordine e altera il ritratto dell'Onnipotente. Composto dalle onde, quando sono calme si succedono regolari. Non può risultarne che una tempesta attraverso la quale Satana troverà un suo varco.» Macari pronunciò queste parole animato da una convinzione profonda derivata dall'esperienza. Tutto era in equilibrio ai suoi occhi, se non si alterava il naturale bilanciamento degli elementi, nella sfera umana come in quella naturale. Modificare le tessere di un mosaico perfetto voleva dire esporsi a forze incontrollabili, di cui un mare e un cielo collerico erano una delle tante espressioni. Idee coltivate non solo da lui, ma in maniera meno categorica, da molti filibustieri, fino alla forma superstiziosa e millenaristica di un Vinci Guerra. Levert avrebbe voluto obiettare, ne fu impedito dal ritorno sulla tuta del cavaliere de Grammont e di Pierbot. Il primo camminava a fatica zoppicando, doveva essere stato assalito da un nuovo attacco di gotta, che le male lingue volevano essere sempre sifilide. Si appoggiava alla spalla dell'altro per tenersi dritto e gli stava dicendo: «Tempo un'ora avrete sullo diligent almeno 30 uomini di equipaggio, ve lo assicuro. Li prendo da Le Cher, dal capitano Jan Willems, che è sovraccarico. A Veracruz sarete ricompensato a dovere per il vostro coraggio. Mi avete fornito informazioni preziose.» «Troppo buono, cavaliere», rispose il Bot. «Vorrei avere modo di contraccambiare.» Un modo ci sarebbe. Tra i vostri ardimentosi ci sono degli ufficiali, me ne servirebbe uno. Lui. Pierbotto indicò Macari. Lo conoscete già, suppongo. È imbarcato con Lorenzillo, serve da secondo. Le Dramon scrutò da capo a piedi il designato. I suoi occhi penetranti parvero soppesarne la muscolatura, tastarne la resistenza fisica, valutarne la tenuta attitudinale. E infine disse: ah, sì, lo conosco, Hubert Macari. Signor Macari, vorreste servire sulle Ardi? Stesse condizioni che sulla francese. Con Lorenzillo mi arrangio io. Macari deglutì vistosamente, poi tolse il cappello e piegò il busto. È un grande onore, mio capitano. E allora recuperate i vostri averi. Questione di poco, sono già sulla barcaccia. Ebbene, eccovi arruolato. De Grammont guardò Pierbot. Tornate sul vostro brigantino goletta tutto tinto di azzurro, togliete la bandiera nera. Veracruz non deve sapere chi sta per colpirla a morte. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce you the extraordinary sensation. And gentlemen, the eternal afflict. Loro erano The Eternal Affliction con il brano San Diego. Ora andiamo avanti con la controinformazione, andiamo in Grecia dove c'è un testo di Rami Seirianos che ha iniziato uno sciopero della fame in solidarietà con Spiros Stratoulis. Leggiamo direttamente il testo del compagno senza fare nessuna introduzione ovviamente. Il giorno 11 novembre 2013 il fratello Spiros Stratoulis ha iniziato lo sciopero della fame chiedendo la fine delle persecuzioni per il caso chiamato organizzazione criminale Squad di Salonicco. A questo punto potrei scrivere chi è Spiros, potrei descrivere i suoi giorni di lotta nei due decenni di incarcerazione, il suo spirito indomabile, la sua integrità e l'umanità a dispetto di tutti gli sforzi di brutalizzarlo nelle democratiche celle carcerarie, ma soprattutto questo sarebbe solo un frammento delle ragioni per cui io questo essere umano chiamo compagno e fratello. Per riuscire a trasmettere l'essenza dovrei essere capace di trovare le parole che possano concretamente esprimere un periodo lungo più di un anno che abbiamo trascorso uno accanto ad un altro nella prigione di Larissa. Parole che possono illustrare l'esperienza concentrata di trovarsi con un altro essere umano 24 ore al giorno, di condividere ogni momento, ogni gioia, ogni dispiacere, ogni difficoltà, ogni speranza, pensieri, preoccupazioni e sogni. Dovrei essere capace di trovare le parole che possono esprimere in maniera concisa l'unico significato dell'essere capaci, in carcere all'interno dello spazio e tempo personalizzato, di dire «Io non sono da solo». L'11 novembre Spiros ha iniziato lo sciopero della fame, oggi 21 è al decimo giorno della sua lotta. Da oggi anche io inizio lo sciopero della fame come atto di solidarietà con Spiros, come un atto che esprime tutto quello che veramente questo essere umano merita e corrisponde all'esperienza che abbiamo condiviso e continuiamo a condividere, anche se adesso ci troviamo rinchiusi in luoghi diversi. Solidarietà è chiamare un altro essere umano compagno e con questo significato dire insieme attraverso i segni buoni, insieme attraverso le lotte, insieme nei momenti difficili fino alla fine. Fratello, conserva i bei momenti, prendi coraggio e avanza. Fino alla vittoria, Rami Sirianos, prigione di Domopos. E questo era il testo di Rami dalla carcere di Domopos. Invece diamo un'altra notizia breve, avevo messo un testo, avevo scritto qualcosa sul blog di Radiazione per quanto riguarda delle microspie trovate nello spazio anarchico 76A. Ricordo che all'indomani e pochi giorni dopo incontro con Alfredo Maria Bonanno, ricordo ci sono stati tre incontri, il terzo c'è stato al 76A, sono state, dopo qualche giorno sono state trovate delle microspie che consistevano in dei registratori che avevano dei sensori, registratori a batteria ovviamente, registratori che ovviamente chi li ha posizionati ci ha messo dei sensori vicino che si attivavano ogni volta qualcuno passasse davanti al sensore oppure ogni volta che qualcuno iniziasse a parlare, tutto ciò per evitare di cambiare la batteria, anche perché se continuavano a registrare c'era da cambiare la batteria almeno due volte al giorno. E quindi c'è questa novità di sensori che quando passi, quando inizi a parlare, si attivano il microfono, iniziano la registrazione. Questa notizia sono pure sfaticati. Sì, si vabbè, potrebbe dire. Il 76 A si trova, come tu sai, sotto un posto palazzo, molto complesso, complesso, quindi anche per loro era molto difficile andare a cambiare la batteria ogni giorno. Però questo che significa? Significa che queste microspie non possono, siccome sono dei registratori, non possono essere rilevate, non possono essere rilevate dai classici scanner per trovare microspie, perché sono registratori normali, quindi non avendo una rete GPS lo scanner non li riconosce e quindi loro continuano a registrare. Poi dopo si vanno a ritirare la microspia e hanno tutta la registrazione bella e fatta. Non so di quanti giga poteva essere la scheda, se c'era una scheda dentro, anche perché comunque i compagni che hanno trovato queste microspie si sono limitati a riportare la notizia solo sul giornale La Miccia, quando penso che sia molto importante riportare, anche se non si condivide internet, in modo di far veicolare le notizie attraverso internet. Comunque, visto che su internet si trovano molte cazzate, qualche volta ci ho pure io, non c'è problema ad ammetterlo, però visto che internet è il mezzo più usato per andare a controllare la controinformazione quotidianamente, sarebbe stato bello da parte dei compagni pubblicare il ritrovamento di queste microspie su qualsiasi sito, non lo dico sulla reazione, ma su qualsiasi sito che fa controinformazione. Questo anche per mettere a conoscenza i compagni che erano intervenuti all'iniziativa con Alfredo Maria Bonanno, lo stesso Alfredo, quindi tutti i compagni che non erano di Napoli, lo stesso sottoscritto è venuto a conoscenza quasi 3 settimane dopo del ritrovamento delle microspie. Queste non sono cose da tenersi caro e metterle in cantina, queste sono cose che vanno fatte uscire nell'immediato per mettere a conoscenza delle nuove della nuova tecnologia che sta usando la repressione. Quindi mi raccomando, tutte le prossime volte non solo facciamolo uscire, ma prima verifichiamo i posti in cui ci incontriamo. E in più invito tutti i compagni che ritrovano microspie di metterle su internet, non costa un cazzo, si condivide o non si condivide internet, è buono mettere su internet, anche perché non riguarda solo i compagni in Italia. Sappiamo che anche in Grecia hanno iniziato a usare le microspie, l'abbiamo letto dal comunicato dei 4 compagni arrestati per la rapina a Verventos e Conzani. Alla faccia della crisi. Per loro era tutta una cosa nuova, quando per noi in Italia è una cosa bella vecchia, il fatto di che mettono delle microspie all'interno dei posti che frequentiamo durante le attività anarchiche, ma nei posti di svago come bar, camere da letto, è già successo. Insomma, l'invito è quello di ogni volta che trovate qualche microspia, mettete, se è possibile, mettete anche le foto, perché vedere è molto importante come sono fatte queste microspie, almeno chiunque, anche chi non ne capisce totalmente di tecnologia, può fare il confronto. Se apre una presa elettrica e trova una cosa in più, può capire che quella cosa in più può essere l'orecchio di uno sbirro. Allora, questo era per quanto riguarda la notizia di Napoli. Ricordo l'appuntamento allo Spazio Anarchico 76 per sabato prossimo alle ore 15. Ora ci ascoltiamo un brano dei Nine Inch Nails con il brano Down in It e poi dopo si torna qui con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. Feelings you wouldn't believe. Sometimes I Yo no soy marinero. Durante il breve tragitto verso Veracruz, l'equipaggio di LRD fu occupato soprattutto a cambiare le vele vecchie con altre appena cucite, un'incombenza comune ai vascelli di grande stazza del vecchio e del nuovo mondo. Salirono in alto, per essere srotolati, gabbie, fiocchi, coltellacci e trinchettina. Macari trascorse ore intere sui pennoni con i piedi poggiati sul supporto instabile di una fune, schiaffeggiato dal vento, ma non c'era tuttavia niente di che lamentarsi. Non si poteva andare per mare senza un forte senso dell'equilibrio e una muscolatura vigorosa. Non a caso i quattro quinti dei filibustieri erano tra i 20 e i 30 anni, anche se ne dimostravano assai di più. I pochi, vecchi, al contrario, mostravano meno della loro effettiva età. Macari scendeva dagli alberi esausto, con le mani e piedi che gli bruciavano. Invidiava Levert, che aveva finito per imbarcarsi anche lui sulle Ardi. La sua esperienza al timone lo metteva al riparo dalle mansioni di gabbiere. «Vita comoda la tua, Francis», gli disse il secondo giorno di navigazione mentre si avviava al boccaporto di poppa per le quattro ore regolamentari di riposo. «Devi solo tenere la barra e far l'amore di tanto in tanto. Comoda un corno!» rispose l'amico, che peraltro sorrise. «Il timone è durissimo e col pretesto che sono nuovo della ciurma, Retexar mi fa fare doppi turni mentre lascia che il timoniere precedente dorma a piacimento». Rigobert Retexar era il primo ufficiale di padre cubano e madre francese, o viceversa. Era tra i pochi dell'equipaggio a essere nato nel nuovo mondo, anche se non sapeva precisare né dove né quando. Simpatico e gioviale, dalla pelle ambrata, calvo ma barbuto, sapeva essere all'occorrenza inflessibile. Macari lo trovava simpatico, però ignorava se il sentimento fosse ricambiato. Il mezzo negro rideva troppo spesso, tanto che era difficile capire se lo facesse per vera allegria. Solo in presenza del comandante de Gramont si manteneva serio e addirittura compunto. Il cavaliere notoriamente detestava le persone ridanciane. Nel corridoio degli alloggiamenti, una sequela di amache che pendevano sui cannoni, Macari si imbatté in Jean Pellissier, nostro uomo dell'Erdi, ma destinato a diventare secondo ufficiale sulla francese in virtù degli scambi in corso. Un bretone basso, grassottello ma molto efficiente. Era raro trovarlo a riposo. Spesso rinunciava a scendere sotto coperta e quando lo faceva era per dare la caccia ai muzzi e sfogare su di loro i suoi bisogni sessuali. Malgrado ciò non era di indole cattiva. Alla tortuga aveva una sposa indigena e una quantità di figli, e ai ragazzini che stuprava finiva poi col fare qualche regalino. Strappati ai brefotrofi, educati alla fatica e abituati a fare le veci delle prostitute di terra, loro si accontentavano. «Siamo a un giorno di navigazione da Veracruz e tra un'ora ci sarà su questa nave una riunione dei capi», disse Pellissier. «De Grammont, Vanon, De Graaf, Anglezon, Lesage, Willems e tutti gli altri, se potete cercate di non dormire troppo a lungo, potrebbero avere bisogno anche di voi». «No, spero non per servire a tavola». «Eh no, che diavolo, siete un ufficiale!» Pellissier sghignazzò. «Siete stato a esplorare le fortificazioni con Pierrebot, potrebbero convocarvi. Aspetto che mi chiamino». Barcollante per la stanchezza, Macari raggiunse la propria amaca e vi montò sopra. Subito si addormentò, ma fu un sonno tormentato in cui scene di sangue si accavallavano all'immagine sensuale di Doña Juno Vergara. Quando un muzzo soprannominato Truflu venne a svegliarlo, si destò facilmente. «I capitani vi vogliono nel quadrato in cui stanno cenando, signor secondo ufficiale», disse il ragazzino, un frugoletto undicenne dai capelli rossi coperto di lentiggini, ogni notte assediato da torme di filibustieri. «Vengo subito», rispose Macari. Raggiunse la sala ufficiale del quadrato mentre, attorno ad un tavolo rettangolare, illuminato dai finestroni che davano sul giardinetto di poppa, i comandanti della pirateria stavano terminando la cena. Il cavaliere de Grammont era in piedi e pareva alterato, e non per il troppo vino bevuto. «Io non sono marinaio per vocazione», stava dicendo a Van Horn. «Sono capitano dell'esercito di Sua Maestà. Posso benissimo condurre un'azione di guerra. L'ho già fatto a Maracaibo, nella sfortunata azione di Campeche. Veracruz, via mare, è imprendibile. Assalita dai boschi, è vulnerabile come una verginella». Van Horn, che aveva in bocca il cannello di una lunga pipa, sbuffò. «Cavaliere, io ve lo ripeto, i miei uomini sono efficienti sull'acqua, al suolo sarebbero dei pessimi soldati». Intervenne allora Lorenzidio con la foga di sempre. «In nome del diavolo, porco, per ogni setola! Non si potrebbero combinare le due cose? Nel senso che la flotta cannoneggia dal largo mentre manipoli scelti attaccano la città uscendo dalla selva». «No, non è fattibile», rispose De Grammont, indicò Macari appena entrato. «Ecco un testimone, amico mio, la fortezza di San Juan de Ulua può essere conquistata dal golfo dopo un congruo bombardamento?» «No, la sola ipotesi è ridicola. La roccaforte supera in potenza tutte quelle costruite finora dagli spagnoli. I cannoni, una ventina almeno, sono puntati sul mare. Una nave che si accostasse a portata di tiro non avrebbe speranze». «Che vi dicevo?» Il cavaliere tornò a sedersi. «Si fa come suggerisco io. Sbarchiamo a qualche lega dalla città e avanziamo tra i boschi come un reggimento. Non dimenticate, Van Horn, che mi impadroni di Maracaibo con un attacco di cavalleria». L'olandese squadrò Macari. «Immagino che la periferia e la costa siano irte di fortini». «Sì, signore. Il porto di Veracruz è una mezzaluna, con due forti alle estremità e altri verso l'interno, però sono piccoli e con pochi difensori. Più pericolosa è una balandra, è il Santo Espiritu, che incrocia nel golfo e funge da vedetta. Può dare l'allarme con facilità». De Grammont annuì. Stava tagliando una fetta di arrosto da un vassoio posato in tavola da due schiavi negri. Non era per lui, ma per il nostro uomo, come volevano le usanze marinaresche. Questi aveva sempre diritto al primo boccone dei manicaretti serviti alla mensa del capitano. «Pierrebot me ne ha parlato». Il cavaliere porse il piatto a uno degli schiavi che uscì. Passò il coltello a Lorenzidio, che si incaricò di affettare il resto. «Mi ha anche detto che il Santo Espiritu e tutta Veracruz attendono l'arrivo del Nuestra Señora de Consolación e del Nuestra Señora de Regla». «È vero», confermò Macari. «Lo ha messo il castellano Fernando de Solis y Mendoza. Pare che ci siano un grave penura di vasi da notte». Si udirono risatine. «E allora è semplice. manderemo avanti due galeoni con insegne spagnole. Appena avranno affondato la nave vedetta, sbarcheremo noi, lontano dalla città. Se c'è qualche fortino lo faremo nostro e ci metteremo in cammino appena possibile. L'importante è piombare sugli spagnoli di sorpresa, meglio quando dormono. Non vi furono obiezioni. I capitani si gettarono sull'arrosto e gli altri cibi con una voracità da lupi, salvo De Grammont, che si versò nella coppa d'argento che aveva di fronte un'ampia razione di vino di Rioja. Macari pensò a un tacito congedo e fece per uscire dal quadrato. Sull'uscio il cavaliere lo chiamò. «Secondo ufficiale, una parola!» «Sì, signore!» «Mi ha detto Lorenzillo che siete un uomo valido, coraggioso, obbediente e incapace di mentire. Non è vero, Laurent?» De Graff, con la bocca piena, fece cenno di sì. Inghiottì brandelli di carne sugosa che gli uscivano dalle labbra. «È vero, per Satanasso, portarmi via magari non è stato molto gentile, cavaliere. Capisco che è stato lui stesso a volerlo, però...» Asciugò la bocca con un tovagliolo già unto. «Posso attestarlo», disse Adrien Zon, che stava sbocconcellando un salsicciotto di cinghiale. «Il signor Macari è noto a tutti per l'onestà e l'obbedienza innate.» Allora De Grammont in un solo sorso vuotò una coppa di vino che avrebbe dovuto essere centellinata. «Ottimo!» commentò, e non si capì se si riferiva al vino o alla situazione. «Vi lodano per la vostra lealtà, secondo ufficiale, in effetti è la sola virtù che pretendo dai miei uomini. E proprio per questo vi chiedo di venirmi a trovarmi domani mattina nella mia cabina a dirmi ciò che mi state nascondendo.» «Nascondendo?» Magari simulò compostezza ma barcollò leggermente. «Mio capitano, vi riferite forse al mio passato? Posso raccontarvi la mia vita per filo e per segno.» Le palpebre pesanti di De Grammont calarono un poco. Gli occhi grigi e stanchi ebbero però uno scintillio. «Non parlavo di quello. Avete evitato di guardarmi direttamente e mantenuto lo sguardo basso. Le poche parole che avete pronunciato erano quasi balbettanti. Non credo che c'entri il rispetto verso la mia persona. C'è qualcosa che vi siete proposto di tacere. Me la direte domattina.» Hubert Macari era sconvolto. Il cavaliere si levò nella sua fantasia entità sovrumana, capace di leggere nel pensiero. Prima non si era accorto di aver balbettato. Adesso sì, mentre diceva: «Certo, mio capitano, verrò a trovarvi anche se non credo di penso di non avervi tacito niente che...» De Grammont agitò nell'aria la forchetta a due punti che aveva nella destra. «Bene, vi aspetto allora. Vi saranno servite fra un attimo una razione di arrosto di vitello e una misura di rum. Dormite bene.» Macari scoprì solo sulla tolda, battuta da un venticello gradevole di sud-ovest, di essere sudato dalla fronte al torace. Si appoggiò all'impavesata. Era combattuto. Per nulla al mondo avrebbe tradito Pierbotta, a cui aveva giurato omertà sui fatti dell'Intrepid. Al tempo stesso il cavaliere De Grammont era il suo capo. «Come disobbedirgli?» Scosse la testa, si inebriò del vento e camminò verso la barra del timone, ancora una volta stretta fra i pugni solidi di Levert. Premette il dorso affaticato contro la chiesula che proteggeva la bussola. «Sai, Francis, il nostro capitano è un demonio. Legge nei pensieri della gente, somiglia a un morto vivente, ma è sveglissimo.» Levert sussultò allarmato. «Di, non gli avrai mica rivelato quello che abbiamo fatto sull'Intrepid? Mordieu, ti strangolerei con le mie mani.» «Ovvio che no, mi danneggerei da solo.» «È vero.» Levert, più calmo, controllò l'orientamento della barra e lo modificò di un poco. «Ridiamo tutti di Vinciguerra, ma è certo che De Grammont è l'incarnazione di poteri sovrannaturali. Sparge attorno la paura e la dannazione. Non mi meraviglierei se da questo mare così calmo...» E proprio in quel momento un vento improvviso sollevò un'onda grande come una muraglia che si abbatté sulle ardi e sul resto della flotta con uno schiaffo smisurato. Tranciò le vele spiegate, trascinò via rotoli di sartiame. Levert sussurrò all'orecchio di Macari, abbarbicato come lui alla base dell'albero di maestra. «Ti avevo avvertito! Agiscono potenze contrapposte del bene e del male di chi non ha causa da difendere. Che Dio ci protegga. Siamo al centro di una guerra che è più grande di noi.» I walk in. E loro erano Dean e Todd con il brano Westwork. Invece ora si passa alla controinformazione. L'ultima notizia per quanto riguarda oggi, dopo ci sarà l'ultima lettura dell'ultimo paragrafo di Veracruz, l'ultimo paragrafo per oggi. Lo ricordo che abbiamo ripreso la lettura da dove si era iniziata lunedì, che a causa di due blackout, un server morto e poi dopo aver cambiato il server a varie cadute di connessione, abbiamo deciso praticamente di ripartire da capo, perché era una diretta molto non si era capito un cazzo, diciamo. È stata una settimana in Fausto. È stata una settimana in Fausto, anche perché pure venerdì praticamente avevamo era stata accesa la radio un'ora e mezza prima della radio e praticamente un quarto d'ora prima sono iniziato ad avere dei vari soliti problemi, fino a quando poi la connessione è caduta definitivamente e non si è potuto fare la radio. La radio, ricordo, è una radio che va solo sul web, quindi non appoggiandosi su un'antenna o un ripetitore che va solo in città, automaticamente con un problema di connessione non può andare on air. Noi allora, siamo come le anguille, noi siamo come le anguille, noi non ci arrendiamo nonostante tutti questi trucchetti, queste malignità da parte di qualcuno a cui rode il culo. C'è un testo sulla redazione, per chi lo vuole andare a leggere, non lo leggiamo. Noi non ci arrendiamo, facciamo un passo indietro, anzi ci facciamo anche delle risate quando cade la connessione, perché ogni volta che cade la connessione sappiamo che a qualcuno sta rodendo il culo di brutto. Allora, andiamo avanti con la controinformazione. Si va in Svezia, dove è stata attaccata una stazione di polizia. Leggiamo il testo, facciamo una premessa. Nel testo praticamente i compagni che hanno fatto questa azione, compagni anarchici, chiamano amici i loro nemici, praticamente dicono che i nemici dei nostri nemici non sono per forza nostri amici, cioè io dico che i nemici dei nostri amici non sono per forza amici, loro dicono che i nemici, anche se attaccano altri nemici, sono amici. Non ci avete capito un cazzo, ne capirete in più, qualcosa in più ora che vi leggo la controinformazione. Allora, 21 novembre 2013, la mattina presto del 19 novembre, i poliziotti delle forze speciali della SAPO, equivalente alla MI5 e l'FBI, hanno organizzato un raid chiamato Operazione Eskill. Gli obiettivi erano un gruppo di antifascisti in diverse parti del centro della Svezia. Alcune persone sono state arrestate, accusate di attacchi ai nazisti, e in diverse perquisizioni i poliziotti hanno dichiarato di aver trovato nelle case un sacco di armi e materiali per la costruzione di ordigni incendiari. Anche se non condividiamo il punto di vista socialista con gli antifascisti, noi condividiamo un comune nemico, e il nemico del nostro nemico è il nostro animico. E questa era la parte. In risposta all'attacco dei poliziotti sui nostri co-combattenti, abbiamo deciso di attaccare la polizia. La sera del 19 abbiamo rotto i vetri dell'ingresso di una stazione di polizia a Vaxio, sud della Svezia. Una modesta azione, non di meno una promessa di ciò che verrà quando i nostri compagni sono attaccati. Alcuni anarchici con la passione per l'odio verso i poliziotti. La mia prefazione, il cappello, come lo volete chiamare, al testo pubblicato sul blog di redazione è riferito proprio a questa frase. Anche se non condividiamo il punto di vista socialista con gli antifascisti, noi condividiamo un comune nemico, e il nemico del nostro nemico è amico. Io penso che il nemico è sempre nemico, quindi va bene l'azione, va bene che comunque molto, molto spesso ci ritroviamo con gli antifascisti che sono comunisti in azione, cioè durante le manifestazioni, però da lì a chiamarli amici è un'altra cosa. Ricordiamoci la storia, ricordiamoci Kronstadt, ricordiamoci Spagna 36, e noi stiamo con i marinai e tutta la reazione si associa, e ricordiamoci che il punto di vista socialista degli antifascisti è un punto di vista molto stalinista, quindi chiamarli amici per me è un'esagerazione. Vabbè, dopo averci fatto amici anche gli anarchici svedesi, mandiamo un brano dei Bad Religion, What Can You Do, e poi dopo si passa direttamente alla lettura dell'ultimo paragrafo di Vera Cruz. Dopo il primo maroso, il Leardi conobbe un attimo di quiete. Seguì però, per un'improvvisa bizzarria del vento, una seconda ondata molto più alta. Spazzò l'intera tolda da prua a poppa e travolse barili, manovre di rispetto, il pentolone del cuoco, le gabbie del pollame. Magari fu lesto a inerpicarsi sullo stradio di Trinchetto. Più sfortunato di lui, un marinaio urlante finì in mare in un letto di schiuma. Non ci fu verso di recuperarlo. Gli si gettò una cima, ma era troppo lontano per afferrarla. Come quasi tutti i fratelli della costa, non sapeva nuotare e quindi si inabissò agitando braccia e gambe a casaccio. Il mare si calmò e, mentre scemava il vento, le onde ripresero a scorrere normali. Il cavaliere De Gramont uscì zoppicando dal quadrato, le mani dietro la schiena. Osservò la tolda denudata dal superfluo e le vele lacerate e disse: «Onde anomale sono tipiche di questi luoghi, così come l'imprevedibilità delle correnti d'aria. Chiamiamo ciò un groppo. La flotta ha subito danni seri?» Rigoberto e Texar, fradicio della testa e i piedi, si impettì: «No, mio capitano, guardate voi stesso. Solo il Sheer Jan Williams sembra lievemente danneggiato». In effetti le imbarcazioni della filibusta non presentavano danni evidenti e filavano sotto la brezza che, di punto in bianco, aveva sostituito la mareggiata. Getti d'acqua si riversavano fuori dagli ombrinali, erano l'unico segno di una burrasca già svanita. De Gramont allora osservò la costa color smeraldo della Nuova Spagna, già visibile a babordo. In serata arriveremo a Veracruz. Ci conviene mandare avanti i galeoni e rallentare l'andatura. Non tanto, però, da distanziarci troppo. Dovremmo calare sul Santo Espiritu e colarlo a picco senza rumore, col favore dell'oscurità. Niente cannoni, dunque, chiese Retexar. Niente cannoni. Dalla città non ci devono sentire. Bene, capitano, trasmetterò l'ordine alle altre navi. De Gramont stava per ritirarsi quando scorse Macari che scendeva dal trinchetto. Lo chiamò a sé. Vi ho fissato un appuntamento per domattina, ma probabilmente allora saremo già in guerra con gli spagnoli. Mi concedereste ora una breve conversazione? Ma certo, ammiraglio, rispose Macari con imbarazzo. Temeva gli esiti di quel colloquio. D'altro canto, era conquistato dal garbo di De Gramont. Non erano molti comandanti che, invece di proferire secche direttive, chiedessero a un semplice ufficiale se era disposto a chiacchierare con loro. E allora seguitemi nella mia cabina. L'alloggiamento di De Gramont, piccolo e pulito, era sotto la saletta comune del quadrato di poppa, un ambiente austero come chi vi abitava. Solo uno scaffale che ospitava bottiglie polverose di vino pregiato faceva comprendere, assieme all'aroma di tabacco stagnante nell'ambiente, come l'inquilino non coltivasse unicamente virtù, ma anche qualche vizio. Il suo più noto, la passione smodata per le donne, era testimoniato solo da un mazzetto di cammei, ognuno con la propria catenella, sparsi su uno scrittorio dai 1000 cassettini. Era probabile che si trattasse di ritratti di alcune tra le sue innumerevoli amanti. De Gramont sedette su una poltrona con una smorfia di dolore. Tutti sapevano che la gotta di cui soffriva gli causava ad ogni istante spasimi lancinanti. Indicò a Macari un divanetto imbottito, accostato al lettino su cui trascorreva le ore di riposo. Ah, sedetevi! Ora vi offrirò, e offrirò a me stesso, qualcosa da bere. Il cavaliere tirò su un nastro che fece suonare una campanella. Subito apparve uno schiavetto negro di una decina di anni. Comandate, signore, disse in spagnolo. Non aveva l'aspetto patito dei mozzi delle nave pirata. I fratelli della costa per mare amavano le carni rose. Non avevano alcun interesse per i negretti, che per loro equivalevano a buffi animali parlanti. De Gramont indicò la rastrelliera delle bottiglie. Prendine una qualsiasi, fattela aprire in cucina e riportala qui con due coppe di cristallo. Mentre il ragazzino obbediva, il cavaliere tornò a concentrare la sua attenzione su Macari. Mi hanno detto che provenite dagli eserciti di Re Luigi e che siete disertore. Sì, ammiraglio. Macari dovette deglutire ripetutamente. Ho anche servito ai vostri ordini nelle Fiandre, ma certo non lo ricordate. Fuggì assieme a Francis Levert, a cui salvai la vita. Adesso, dopo un'esperienza di timoniere col capitano Lorenzillo, è al vostro servizio. Prima di scappare e dopo le Fiandre, ero stato combattente di terra in suolo francese. Ah, con me non avevo che criminali. Quali erano le vostre colpe? Delinquente comune, ugonotto, libertino, soldato imputato di codardia, cospiratore, sodomia, ebreo rinnegato e ricaduto nei suoi viti, sospetto ugonotto. Direi, sebbene fossi un cattolico non praticante, non mi sono mai interessato troppo di questioni religiose. Tornò il valletto che porse coppe di cristallo piene di vino ai due interlocutori, poi posò la bottiglia che teneva sotto il braccio destro, sul piano dello scrittoio, e uscì. De Gramont inghiottì il liquido senza nemmeno assaggiarlo, fissò Macari. E adesso ditemi tutto. Pierbot ha affondato per errore una nave francese, o sbaglio? Avete sterminato l'equipaggio perché non rimanesse traccia del crimine e poi avete ridipinto il brigantino Goletto e lo avete spacciato per spagnolo, dico bene? Macari restò sconcertato. Si chiese se il capitano possedesse poteri magici. A quel punto non poteva più negare. Sì, è vero, ma voi come lo sapete? Non era difficile da indovinare, le diligence puzza ancora di vernice. Fosse stata una nave spagnola, non sarebbe stato necessario camuffarla. Se invece si fosse trattato di un veliero inglese, olandese o portoghese, avreste confessato l'equivoco senza timore di conseguenze. Non sappiamo mai esattamente chi siano i nostri alleati, no! Doveva per forza trattarsi di un'imbarcazione appartenente alla stessa potenza che serviamo. Molto colpito dal ragionamento, Macari balbettò: vi chiedo scusa, era notte, il nome della goletta non si leggeva, Pierbotta ha creduto in buona fede. Lasciate perdere! De Gramont alzò le spalle e anche questo gli causò una fitta. Bot pagherà il suo errore perdendo il grado di capitano. È un ottimo ufficiale, ma un pessimo comandante. Non ci saranno altre sanzioni per lui. Adesso devo pensare solo a Veracruz. Non posso perdere tempo in vendette mischine. Quanto a voi... Sì, magari avevo il cuore in gola. Dopo la presa della città vi riscatterete liberando mia sorella, che è prigioniera dei preti in San Juan de Ulua. Un colpo di mano audace, attuato con pochi fidi, magari gli stessi che erano con voi nella ricognizione, a parte Bot. Ve la sentite? Certamente, cavaliere. In quel momento Macari avrebbe ceduto a De Gramont anche l'anima, tanto era il suo sollievo. Ve la riporterò a costo della vita. Bene, infatti confido in voi. Vi domando però un altro favore. Il capitano questa volta sorseggiò il vino con lentezza. Le sue labbra, sottilissime, parvero tumide attorno all'orlo della coppa. Bot mi ha detto che a pranzo col governatore c'era una dama di bellezza singolare proveniente da Caracas, non ne ricordo il nome. Macari rinunciò all'istante ad ogni disegno sulla donna che lo aveva incantato. Oh, si chiama Gabriela Junot Vergara, è davvero molto bella. Voglio anche lei, se è ospite del forte. De Gramont parve rendersi conto di aver esposto una propria debolezza, perché la giustificò con un impaccio palese. Potrebbe valere un bel riscatto. Sarete accontentato, signore, assicurò Macari. In quel momento un nuovo personaggio varcò la soglia ed entrò nella cabina con la sicurezza di chi non è tenuto a bussare né a chiedere permesso. Macari lo aveva visto solo da lontano, tuttavia lo riconobbe senza difficoltà. Era il dottor Alexandre Olivier Exuemeling, il medico che, dopo aver servito per decenni ogni filibustiere della tortuga, emerso dalle cronache da Lolonnais a Roc a Montauban, curava adesso la gotta dell'ultimo condottiero di una lunga estirpe di predoni. Buonasera, cavaliere, vi disturbo? Voi non disturbate mai, dottore, rispose De Gramont con estrema cortesia. Sedetevi con noi, vi presento il mio nuovo secondo ufficiale, il signor Hubert Macari. Era sulla francesa, vi conoscete? Ah, solo di vista, rispose Exuemeling, scoprendosi il capo. Aveva capelli lunghi e grigi, una barba curata, grosse basette, gli occhi grandi e azzurri, anche se infossati ispiravano fiducia e simpatia. Vestiva di nero dalla testa ai piedi, a parte le calze bianche e un larghissimo colletto rotondo di raso increspato che gli avvolgeva il collo magro. Lieto di fare la vostra conoscenza, signore. Macari rispose con un sorriso e un mezzo inchino. Volete del vino, dottore? Uffì De Gramont. No, e anche voi non dovreste berne, cavaliere. Il consiglio fu formulato senza alcun cipiglio. La voce di Exuemeling era calda e affettuosa. La vostra salute sembra eccellente, ma scommetto che soffro come un dannato. Avete vinto la scommessa, i dolori alle gambe non si quietano un attimo, sono lancinanti, ormai non riesco quasi più a dormire. De Gramont si strinse nelle spalle. Ma non mi importa, io sono un morto vivente. Ah, di gotta non è mai morto nessuno. Non parlo della gotta, dottore, io sono morto dentro, lo sono da anni. Ho sofferto mali che nulla hanno di fisico. Mi conservo al mondo solo per liberare e vendicare la mia povera sorellina. L'hanno arrestata, che aveva solo 15 anni. Chissà come la ritroverò, se la ritroverò. Exuemeling lanciò al suo capitano un'occhiata carica di simpatia. Dovreste confidare in Dio Onnipotente, cavaliere. Lui può aiutarvi e lo farà. Dio! De Gramont fu scosso da un tale nervosismo che gocce di vino traboccarono dal calice che gli macchiarono le brache. È proprio lui che ha voluto la disgrazia della mia famiglia. Preti e frati superstiziosi hanno messo le mani sporche su una bambina innocente e l'hanno sepolta viva. È là da un lustro, capite? Esposta al freddo, alla fame, alla privazione d'aria e di luce. Quasi spero di trovarla morta, sarebbe meglio per lei. Tutto ciò è stato compiuto nel nome del Dio che evocate. Ex Kemeling guardò il suo comandante con sincero rammarico. State parlando del Dio dei cattolici e della loro chiesa. Voi, però, siete di famiglia ugonotta e anche vostra sorella è in prigione per questo. La voce di De Grammont era ormai alterata, aveva bevuto troppo e continuava a bere. È sempre lo stesso Dio. Giudei, cattolici, protestanti e musulmani servono lo stesso padrone. Io ho fatto la mia scelta. Meglio il diavolo, Satana, Lucifero. Mi fanno soffrire in anticipo le pene dell'inferno, ma sono più onesti. Non mascherano da atti generosi le loro bassezze. Da quando mi affido alla saggezza del demonio, uccido, torturo e mi arricchisco senza troppe remore morali. E il Papa fa lo stesso, ma dice di ispirarsi ad una volontà superiore. Macari comprese che il cavaliere è ubriaco. Ciò lo imbarazzava moltissimo. Un colpo di cannone, però, proveniente dall'esterno, lo strappò al suo disorientamento. Colse il pretesto per rimettersi in piedi. Perdonatemi, signori, credo che il mio posto sia sulla tolda. Quando uscì dall'aria aperta, si rese conto che era sera inoltrata, quasi notte. Il tempo era trascorso senza che lui ne avesse potuto accorgersene. Sui litorali della Nuova Spagna brillavano fuochi. Che cosa volevano dire? Ecco, oggi finisce qui la diretta d'azione di lunedì 25 novembre, abbiamo finito un altro paragrafo di Veracruz, penso che oggi sia andato tutto liscio, abbiamo controllato, penso, a parte qualche stacchetto di interruzione, però va bene così, è andata tutta liscia la diretta d'azione di oggi. Ora ricordo gli indirizzi utili per la redazione, redazione@audistici.org per la mail, se volete inviare testi, comunicati, scritti, giornali online, iniziative oppure consigli per le letture sulla redazione del lunedì, noi stiamo leggendo, le stiamo scegliendo noi volta per volta, però se ci avete voi qualche libro ci farebbe piacere ogni tanto che qualcuno scrivesse e ci consigliasse qualche libro da leggere, non un testo anarchico ovviamente, anche un romanzo, andiamo sulle storie, su sì, diciamo quello che qualcosa ci qualcosa che comunque si avvicini un attimo alle tematiche anche quelle anarchiche. E allora soprattutto se avete anche qualcosa di critico, direttamente a noi, così se ne parla, compagni. Lo dite direttamente a noi senza scrivere pagine e pagine su siti e blog come è stato fatto ultimamente per quanto riguarda evangelisti, parlando della storia degli evangelisti, che è marxista, leninista, non ci frega un cazzo, perché alla fine scrive romanzi e alla fine non esce il suo marxismo. No, e poi tenendo conto che comunque il buon Valerio Evangelisti non sa neanche chi leggiamo i romanzi, infatti, sottraendogli i suoi diritti d'autore, per cui è un ennesimo no copyright che si fa sulla redazione. Allora, invece per il blog, dove potete già da domani riascoltare la diretta d'azione, radioazione.blogs.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata. Per la radio radioazione.listentumaradio.com l'appuntamento è per venerdì 29 ore 17. Ora vi lascio un altro brano di Federico Salvatore, Come si era aperto così si chiude, e con questo vi saluto e ci sentiamo venerdì 29 ore 17. Napocalisse. Che non porta più nessuno, nero come sta terra, terra luce nessuno, nero come la canzone nato 43, fatte nira come a che. Nira come una gatta che c'è scippa la fortuna. Nira come un raù, con pasti maccaruna. Nero filosofia che recita così. Più nera la mezzanotte, non può venire. Nero come un carro che tira 8 cavalli. Ma quando sono che rega mi portato in gola. Ma sai che un nero è America, può tornare a secci. Se guerra e terremoto ci hanno spazzato i braccia. Nero come fu nera, a peste lo 600. Nero come sono nere, e piede dei fuienti. Nero come una cozza che caccia portare oculera. Chissà chi ce l'ha fatta, e sta fattura nera. Nero come bandana, i turchi e sarracina, e Napoli ogni giorno, sa vesta marrucchina. Nero come a tarantola, caccia pugnetta pelle, e pa' caccio volena, nascetta tarantella. Nero come sui nicchi, e tutte catacombe, che hanno scuse i martiri, e hanno scansato le bombe. Nero come falini, sottano scandinata, a tu stanno anzerrata, imbrogliere o passata, a grumatina nera, scordata non sciuscià, capolazzate le scarpe, più nere sta città, a cacciatella nera, pallana mare morta, che quando erano viva, non se ne sono che accorta, a cartolina in Napoli, ancora bianca e nera, a tutte in operaia, quando nasce in maniera, pace tu cielo nere, più nere non con moglie, va come gli abbagnoli e a velana a coroglio. Nero come nottata, schierata senza stella. Nero come sue lacrime e tutte le femminelle. Nero come formica, aredo scarrafone. Si acciorta nere Napoli e che sta processione. Mille speranze giorno, areta l'estrazione. 80.000 anima, areta nu pallone. 100.000 cantante, areta l'illusione. Troppi nanni l'ancora, areta nu zuffone. Nero come la pistola e ogni camorrista, e nero pure la cronaca che scrivo giornalista. Nero come un dress e chi senza seringa s'accatta fammellata e polla di rosanca. Nero come sui tonaca ripriva di mestiere che sanno un bruglio prossimo con l'arma e preghiera. Nero come la divisa e ogni carabiniere. Nero come una vespa che fu in coppia quartiere. Nero come sui mani che parano pulita. Perché a condirenare non si sono mai sporcata. Nero come se tocca i giudici avvocati. Nero come coscienza i certi magistrati. Nero come sui penna e tutti i professori. I Porsche di primaria e borsa di dottura. L'unica cosa verde è offella dei malati. Canna passava forza per cliniche private. Nero come vestito la maronna addolorata. Nero come tenocchio una mamma addolorata. Una che ha mio figlio, che giovane in mano, e un'altra che ha mio figlio, che poverino in feno. Nero come capillo, digno della portata. Nero come aia stemma, a chi un napolitano. Quanto passano uai, e nero li ha passato. Più nero caffè, a sti bocca fa conciare. Nero come sue lente, lo popolo c'è capo. Che non vede né prima né dopo che ha votato. Tutte le policinelle che in macchina blindata. Che passano correndo a mezzi disoccupati. Nero come sta razza e carnagione scura. Chissà se è stato solo o è nero pa' paura. Nero come hanno fumo che era 100 anni a ira. Ci vennero ogni giorno ministri e ministeri. Nero come il coraggio di chi non è partuto. Di chi è rimasto a Napoli e non se ne è fuiuto. Nero come fu nera a fissa la sirena. Che ci fu tetto cuore e ancora c'è in catena. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Yeah.